24, i gialli della storia. Pablo Escobar era l'uomo più temuto di tutta la Colombia, il re della cocaina, ricchissimo, potentissimo e spietato. Da ladro di macchine a signore della droga, passando attraverso il calcio e la politica. Signore incontrastato del cartello di Medellín, con un fatturato di 25 miliardi di dollari l'anno. Ma Escobar non è soltanto un assassino efferato, ma anche un eroe dei poveri. Un Robin Hood che distribuisce parti dei suoi proventi, ottenendo in cambio protezione e nascondigli. La sua corsa finisce il 2 dicembre del 93 in un scontro a fuoco con le forze di polizia che lo cercano da anni. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia e gli ultimi momenti della sua vita attraverso le testimonianze dei militari superstiti e la trascrizione delle sue ultime telefonate. L'ultima ora di Pablo Escobar comincia in un'anonima abitazione di un modesto sobborgo di Medellín, in Colombia. Oltre a lui, nel covo, abitano una guardia del corpo e sua zia. Per sua zia Luzmila, Pablo Escobar, che per tutti è il signore della droga, è semplicemente il nipote preferito. Pablo era una persona molto intelligente, premurosa e sensibile. Il mio nipote preferito. Un uomo di qualità. Se avesse voluto, sarebbe potuto diventare anche il presidente della Colombia. Sul serio, il presidente. Per la legge, però, Pablo Escobar è uno dei più pericolosi criminali della storia. Per me Escobar era uno psicopatico. Un folle. Intendiamoci, era un uomo difficile da inquadrare. Aveva una coscienza sociale. Amava aiutare i poveri. Però, pensando di difendere la gente, uccideva. L'ultimo giorno di Escobar comincia con una colazione a base di spaghetti. A prepararla pensa la zia Luzmila. La sua banda, un tempo costituita da centinaia di uomini, è ormai ridotta ad una sola guardia del corpo, soprannominato Limón. Limón. Escobar vuole parlare con sua moglie e i suoi figli a Bogotà, ma la telefonata gli sarà fatale. Tieni, chiamali. Come d'accordo, si spaccerà per un'altra persona. Colonnello, sono in linea. Digli che non risponde nessuno. Tienilo al telefono e digli che continuerai a provare. La centralinista lavora per il colonnello Hugo Martinez, che guida l'operazione per catturare Escobar. Da un'unità di sorveglianza mobile, il figlio del colonnello Martinez, Hugo Junior, carpisce ogni singola parola di Escobar. Hugo ha un'attrezzatura di controllo che scansiona tutta la zona. Indica la potenza del segnale e indica anche l'area di provenienza del segnale stesso. Quindi, più si avvicinano, maggiore è il segnale. Ma chi è Pablo Escobar e come è cominciata la sua attività criminale? Escobar ha respirato fin da bambino un'aria di violenza e rivolta nella città montagnosa di Medellín, così come in famiglia, dove suo nonno è un contrabbandiere di alcolici. Mio fratello Pablo era un bravo ragazzo. Amava studiare, ma soprattutto amava gli amici. E poi, fin da bambino, ha sempre avuto un fortissimo senso di lealtà verso gli amici. Questo è Escobar secondo suo fratello. Nella realtà, fin da giovane, Escobar è un truffatore, ladro di macchine e rapitore. Poi un giorno scopre la droga. Escobar impara che con la marijuana si possono fare milioni di dollari e che la cocaina è ancora più fruttuosa. Capisce che potrebbe guadagnare fino a 1 milione di dollari al giorno e allora non perde tempo. La chiave del suo successo, del resto, è straordinariamente semplice. Chiunque abbia a che fare con lui dovrà scegliere plata o plomo, argento o piombo. Quando lo arrestano nel 1976 con 39 kg di cocaina addosso, il giudice viene minacciato di morte. I due poliziotti che hanno eseguito l'arresto invece vengono uccisi. E la stessa sorte tocca al magistrato che ha firmato il mandato di cattura e al giornalista che ne scrive. La sede del giornale per cui lavorava, infine, viene distrutta da una bomba. Ora però, da una casa sicura a Medellin, Escobar vuole utilizzare la stampa per guadagnarsi il favore del pubblico. Un momento. Grazie. Juan Pablo, il figlio sedicenne di Escobar, ha combinato un'intervista con un giornale locale. Il ragazzo comunica le domande al padre. Sì, per Pablo Escobar questa intervista dovrà servire a guadagnarsi il sostegno del pubblico nella sua campagna per portare la famiglia fuori dalla Colombia. In cambio, sostiene, aspetta, si consegnerà alla polizia. Faccio una lista. Che cosa vogliono? Escobar sapeva che il suo telefono era sotto sorveglianza e che lo stavamo registrando. Infatti le sue telefonate non duravano più di 2 o 3 minuti. A un certo punto diceva, basta, basta così, chiudiamo la conversazione. Era sempre stato molto, molto cauto e per noi era impossibile localizzarlo. Nella caccia a Escobar, i colombiani possono contare anche sull'aiuto di un gruppo segreto di pattugliamento dell'esercito americano dal nome in codice Sentra Spike. Il gruppo sorvola il cielo sopra Medellin per localizzare i segnali del telefono di Escobar e passarli alle unità mobili, tra cui quella di Hugo. Ma le rilevazioni riguardano un'area di 600 metri quadrati. Compito di Hugo è scoprire l'esatto punto all'interno di quella zona. Un lavoro estremamente delicato, reso difficile dalle telefonate troppo rapide di Escobar e dalla sua abitudine di parlare al cellulare su taxi in movimento. Circolavano varie storie sui viaggi in taxi di Pablo Escobar. Una volta ne sentimmo una secondo cui aveva preso un taxi addirittura vestito da suora. Pablo Escobar è ancora libero, è la sua ultima ora di vita, ma non è più l'uomo dei tempi di gloria. Agli inizi degli anni Ottanta, Escobar ha addirittura uno zoo privato. Ogni anno trasferisce centinaia di tonnellate di cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti. Secondo la rivista Forbes, ha già ammassato un patrimonio di almeno 7 miliardi di dollari, una fortuna. Spedizioni di centinaia e centinaia di chili di cocaina erano ormai diventate la norma. Ad un certo punto, Escobar era arrivato a inviare in America aeroplani zeppi di cocaina. Il velivolo sganciava il carico in mare, a largo o in qualche zona clandestina, per poi tornare pieno, stracolmo di banconote da 20 dollari in Colombia. C'è stato un momento in Colombia in cui i soldi non venivano più contati, venivano pesati. Neppure la ricchezza e il potere sembrano mai bastare ad Escobar. Egli vuole essere riverito, ammirato, amato. E del resto sono in molti, almeno in apparenza, a dargli l'affetto che cerca. In genere, lì dove c'era molta povertà, lui interveniva per aiutare la gente. Dava case, dava soldi. E ovviamente i poveri apprezzavano moltissimo questi gesti. Escobar costruisce un intero quartiere e lo offre ai senza tetto della zona. L'unica cosa che chiede è che l'area venga denominata Barrio Pablo Escobar. Evviva Pablo Escobar! Grazie per le vostre parole gentili. Vi ringrazio tanto. Lo ammiravano. Per loro era una sorta di Robin Hood. Rubava ai ricchi per dare ai poveri. O così a loro sembrava. Per sdebitarsi, i poveri gli giurano eterna fedeltà. Divengono così il suo esercito di spie agli angoli delle strade, nei taxi, perfino all'interno della polizia. Killer adolescenti fanno la fila per uccidere i suoi nemici. Nel 1982 Escobar è ormai così popolare da essere eletto al Congresso colombiano. Dopo la sua elezione, tuttavia, viene accusato di essere un trafficante di droga e costretto alle dimissioni. A poco il mondo comincia a conoscere chi è davvero Pablo Escobar. Il 10 marzo dell'84, il ministro della giustizia colombiano Rodrigo Lara autorizza la confisca e la distruzione di una serie di laboratori di cocaina nascosti nella giungla. Sarà il sequestro di cocaina più grande della storia e così un miliardo di dollari di Escobar vanno in fumo. Immediatamente Escobar dà l'ordine di uccidere il ministro e allora il governo colombiano adotta una nuova tattica, varando una legge che permette l'estradizione dei trafficanti in America per essere processati lì. Per Escobar è una dichiarazione di guerra. Fino a questo momento nessuno tra chi lo ha sfidato è rimasto in vita, come ha sperimentato sulla sua pelle un suo vecchio socio. Un suo vecchio socio d'affari fece qualcosa che deve aver urtato Escobar. E lui volle che la punizione fosse di esempio per tutti. A quanto si dice, lo ha fatto impiccare per le braccia. E dopo averlo cosparso di benzina, gli ha dato fuoco. ma ormai i nodi stanno venendo al pettine. A Pablo Escobar rimangono da vivere solo 40 minuti. Gli Escobar sono di nuovo al telefono. Hugo si mette subito al lavoro per provare a localizzare il segnale della linea. Il segnale ora si riceve forte e chiaro. Hugo è convinto che Escobar sia molto vicino. La sua attenzione si concentra tutta sul centro commerciale dell'obelisco. Non possiamo sbagliare. Hugo è certo che Escobar si stia nascondendo nel centro commerciale, ma un riflesso sul segnale crea uno strano effetto. Ciò nonostante, egli rimane convinto che valga la pena di tentare l'azione. Ancora un giro, devi essere sicuro. Sono 5 anni che Hugo dà la caccia a Escobar. Dopo vari insuccessi, egli sente su di sé un'enorme pressione. Suo padre, i colleghi, l'intero paese attendono la sua prossima mossa. Il problema. Hugo si rende conto di avere un problema. Se Escobar fosse da qualche parte nel centro commerciale, si dovrebbe sentire il frastuono attorno a lui. Al contrario, dovunque si trovi Escobar, intorno a lui sembra tutto estremamente tranquillo. Eludere i suoi inseguitori è sempre stata una specialità di Escobar. 8 anni prima, di fronte al rischio per lui potenzialmente letale di essere estradato negli Stati Uniti, Escobar ha organizzato un movimento di opinione a suo favore. Io sono contrario al trattato di estradizione perché viola ben 23 articoli della Costituzione colombiana e i nostri diritti umani, e perché tutti i colombiani sono contrari. Ripeteva spesso: meglio una tomba in Colombia piuttosto che una cella negli Stati Uniti. Ma dopo il 6 novembre 1985, Escobar decide di alzare il tiro. Contrastare la legge per l'estradizione negli Stati Uniti non basta più. Il gruppo guerrigliero marxista M19 assedia il Palazzo di Giustizia di Bogotà. Nella sparatoria, dei 24 giudici dell'Alta Corte ne restano uccisi 11. Gli inquirenti pensano ad un atto di terrorismo. Più tardi però emergerà il sospetto che Escobar abbia pagato all'M19 $1 milione perché il gruppo assaltasse il palazzo e una volta dentro distruggesse tutti i documenti relativi ai signori della cocaina. Ma ogni accusa nei suoi confronti si scioglierà come neve al sole. Agosto 1989. Escobar ordina l'omicidio di Luis Carlos Galán, candidato alla presidenza. La Colombia è ormai in ostaggio di Pablo Escobar e della sua strategia del terrore. Il governo di Bogotà si rivolge allora al presidente degli Stati Uniti, George Bush padre. Il nostro più serio problema oggi è la cocaina e ancora di più il crack. Di chi è la colpa? Voglio essere molto chiaro su questo punto. Di tutti coloro che usano droghe, di chi le vende e di chiunque faccia finta di niente. Questo crack, questa cocaina, sono stati confiscati qualche giorno fa da una unità antidroga in un parco a pochi metri dalla Casa Bianca. Ha un aspetto innocente, sembra una caramella, ma sta trasformando le nostre città in zone di guerra e sta uccidendo i nostri figli. Non illudiamoci, questa roba è veleno. E il nostro messaggio al cartello della droga è il seguente. Le regole sono cambiate. Noi aiuteremo ogni governo che ce lo chiederà. Se ce lo chiederanno, siamo pronti a mettere a disposizione le risorse appropriate delle nostre forze armate. Intensificheremo i nostri sforzi contro i trafficanti di droga in mare aperto, negli spazi aerei internazionali e ai confini. E per i boss della droga, pena di morte. A questo punto il presidente Bush invia degli esperti in Colombia e proprio in questa occasione che entra in funzione il Search Block, un'unità speciale che darà la caccia ad Escobar per 5 anni. Mentre l'unità speciale continua la caccia a Escobar nell'enorme centro commerciale di Medellin, Hugo prova rabbiosamente a capire il perché del fallimento. Con sorpresa e disappunto, Hugo scopre che il segnale viene riflesso dall'acqua. Tra il centro commerciale e il luogo dove si nasconde Escobar, infatti, sorge una barriera anticiclone che causa un effetto di rifrazione che lo ha del tutto depistato. A questo punto Hugo non ha scelta. Deve abbandonare la tecnologia e fare affidamento solo su se stesso. Così andiamo bene. Fidandosi del suo istinto, Hugo segue il segnale e l'acqua lungo il percorso. Adesso gira a destra. E questa volta Hugo ha ragione. Si sta dirigendo verso il segnale rosso che proviene proprio dal nascondiglio di Escobar. L'unità speciale nel frattempo è ancora nel centro commerciale. Escobar non ha mai conosciuto la sconfitta. Nel giugno del 1991, dopo aver messo in ginocchio l'intera Colombia, egli costringe il governo alla resa. La legge sull'estradizione viene abrogata. Come contropartita, Escobar si consegna. Anche questa volta, tuttavia, è sicuro che la vittoria ultima sarà sua. Pur se in prigione, è ancora lui a dettare le condizioni. La cosiddetta cattedrale, la prigione in cui Escobar ha trascorso parte della sua detenzione dopo essersi consegnato, era quasi un club privato. Da lì Escobar continuava a gestire tutte le operazioni, a ricevere percentuali su tutto ciò che il cartello di Medellin faceva. Fece costruire addirittura una discoteca all'interno del carcere e un campo di calcio con tanto di riflettori. Le celle erano molto più accoglienti di qualsiasi altro albergo in Colombia. Era una situazione incredibile, grottesca. Dalla sua prigione dorata in cima alla collina che sovrasta Medellin, Escobar ricostruisce il suo impero e segue tutti i suoi affari. Escobar cominciò a sospettare anche dei suoi fedelissimi. Era diventato del tutto paranoico. Luglio 1992, Escobar convoca un incontro di vecchi narcotrafficanti. Sospettando che i fratelli Moncada e Galeano, suoi soci in affari, si mettano in tasca più di quanto spetta loro, li fa impiccare a testa in giù e li tortura a morte. La tortura prevedeva anche il taglio delle dita, delle mani. Escobar li squartò e poi li sezionò in modo che, non venissero mai scoperti. Il presidente colombiano Gaviria cerca di trasferire Escobar in un carcere più duro, ma ridurlo alla legge non è semplice. Quando un battaglione dell'esercito arriva a prelevarlo, Pablo Escobar si limita a passargli davanti e andarsene. I soldati sono troppo terrorizzati per decidere di fermarlo. Ma lasciare la sua cella di lusso è il peggiore errore commesso da Escobar in tutta la sua vita. Per il governo, riacciuffarlo diventa un punto d'orgoglio. Bogotà investe nella caccia uomini e mezzi. Scendono in campo anche gli ex soci in affari di Escobar. Naturalmente lo fanno a modo loro, con le bombe. Fa la sua prima apparizione un gruppo noto come Los Pepes, composto da tutte persone per una ragione o per l'altra perseguitate da Escobar e ora in cerca di un'immediata vendetta. Sostanzialmente utilizzarono le stesse strategie impiegate da Pablo Escobar per controllare il paese. E non si fermarono davanti a nulla. Dettero alle fiamme edifici, villaggi interi, e uccisero gli uomini al soldo di Escobar. Sui cadaveri lasciavano dei segni per far capire chiaramente che erano stati uccisi perché collaboratori di Pablo Escobar. Intanto Ugo ha trovato il rifugio di Pablo Escobar, ma gli uomini della squadra speciale non sono con lui. Lo raggiungeranno dopo aver perquisito il centro commerciale. Non so cosa sia passato per la mente di Ugo Martinez in quel momento. Dopo tanti anni, dopo tanti, troppi tentativi andati a vuoto, falsi allarmi, finalmente, era certo che Escobar fosse a un passo da lui. Nell'aprile del 1993, mentre il suo impero personale si sta disgregando, Pablo Escobar ha un solo pensiero ossessivo: salvare l'unica cosa che gli è rimasta, la famiglia. Ma quando prova a mandarla a Miami, gli agenti dell'antidroga americana negano il visto d'ingresso. Perché se ne volevano andare? Ma è semplice. Per quello che stavano facendo i Los Pepes. L'incapacità di proteggere la famiglia mostra quanto ormai l'impero di Escobar sia definitivamente in rovina. Stavano in albergo, leggevano il giornale, guardavano la TV, conducevano una vita da reclusi, nascosti in un luogo che tutti conoscevano. Mancano 4 minuti all'ora zero. Hugo è ancora da solo. Finalmente alle 3:03 arriva il search block. Gli uomini circondano velocemente e in silenzio la casa, mentre tiratori scelti si posizionano sulla via posteriore. Piano. Sì, c'era anche un impegno. Escobar continua la sua conversazione, ignaro che il cerchio intorno a lui comincia Sfonda. A chiudersi. Vai. Si è parlato di un accordo per farvi uscire dal paese. Questa parte. Sta succedendo qualcosa. Anche la morte di Pablo Escobar, così come tutta la sua vita, è circondata da un alone di leggenda. questa la versione ufficiale. Non mi prenderete! Vi ammazzo! Ma ci sono anche altre versioni. Una sostiene che a uccidere Pablo Escobar sia stato un colpo alla nuca. Ma secondo alcuni osservatori americani, un colpo di tale precisione avrebbe potuto essere sparato solo da tiratori scelti della Delta Force degli Stati Uniti. Non mi prenderete! Vi ammazzo! Ma la famiglia di Escobar ha un'altra teoria. Sono sicuro che non è stato ucciso. In tutti quegli anni che gli stavano addosso, più di una volta mi aveva confidato che se lo avessero messo all'angolo, senza via d'uscita, si sarebbe sparato in testa. Ed è così che è morto. Non crederò mai che sia stato ucciso. È stato lui ad uccidersi. E poi me lo diceva sempre. Preferisco una tomba in Colombia piuttosto che una cella negli Stati Uniti. Qualunque cosa sia successa quel giorno su quel tetto ha dato vita all'ennesima leggenda su Pablo Escobar. Tra le sue migliaia di sostenitori subito esplode il dolore e la rabbia. E c'è qualcuno pronto a giurare che la morte sia solo l'ultimo trucco di Pablo Escobar. Juan Pablo, la madre e la sorella Manuela sono fuggiti in Argentina cambiando identità. Anche loro sono ricercati. Dopotutto sono e saranno sempre degli Escobar. Roberto Escobar è sopravvissuto ai Los Pepes, ma anche alla prigione. Un giorno, però, aprendo la busta di una lettera, è rimasto gravemente ferito, riportando danni permanenti alla vista e all'udito. Guillermo Aguilar, grazie alla fama per la morte di Escobar, è divenuto governatore della provincia colombiana di Santander. Hugo Martinez Jr. si è talmente emozionato alla scoperta del covo di Escobar da non riuscire ad esplodere neanche un colpo nel momento decisivo. Sopravvissuto ad anni di pericoli, è morto in un incidente stradale nel 1999. Il colonnello Martinez, promosso generale, è andato in pensione nel 2003. Senza più suo figlio al fianco, oggi si dedica alla pittura. Ma che cosa ha cambiato la morte di Pablo Escobar nel traffico di cocaina che affligge l'intero continente americano? Nonostante tutti gli omicidi, la cocaina è divenuta più economica e abbondante di quanto lo stesso Escobar avrebbe potuto immaginare.